Si può fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Te ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta. Il primo cittadino e amico mio, tutti gli che te ci ho mandato io. E va, va avanti tu che adesso c'ho da fa. Sarai la mia metà, ma se non parti, diventi un altro po' la mia tre quarti. E va, non puoi saper piacere che me fa. E comunque la riforma del bicameralismo l'aveva fatta Berlusconi. Diciamo, sì, da questo punto di vista Renzi, diciamo, ha un ispiratore. Ecco. Sola, io te ce manno, sola, io te ce manno, sola, sola senza di me. Già che ce so, me levo st'altro peso. Quando Renzi andò al governo, iniziò a realizzare un programma che non era il programma del Partito Democratico. Era il suo? Sì, no, veramente non era neanche il suo, era quello di Berlusconi. Che ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta. A te ti danno la medaglia d'oro e noi te ce mannamo tutti in coro. E anche per come è scritta questa riforma, secondo me basterebbe la lettura per convincersi a votare no. Cioè è scritta però, male. Purtroppo, È scritta male, lei dice. Sì. A me mi piace andare controcorrente. E va bene, buonasera a tutti cari ascoltatori. Ciao a tutti, buonasera da Alessio Maurizi, ben ritrovati. Si può fare. D'Alema manda definitivamente a quel paese Renzi. L'ha già fatto tante altre volte. Ormai le differenze di posizione sono talmente tante che non si contano più. Chiamateci 800 24 00 24 se condividete le critiche, per esempio sulla riforma costituzionale. Adesso sentiamo un passaggio di D'Alema che se la prende anche con la Boschi. Oppure chiamateci se invece volete mandare a quel paese D'Alema. Se vi siete magari stancati di sentirlo parlare. C'è un fatto che mi butta giù al morale. Addirittura la simpaticissima ministro Boschi ha detto che se passa la riforma costituzionale si potrà combattere meglio il terrorismo. Sì. Cioè noi siamo arrivati al punto che se uno non gli piace questo pastrocchio lo accuseranno di essere complice dell'ISIS. Quanta gente che c'è sta. Così che mi incoraggio e mi consolo. Lei sa che il ministro degli esteri Erdogan l'ha conosciuto, l'ha incontrato in passato? Sì, sì. Ci crede a questa idea del colpo di Stato organizzato da Erdogan? No, no. Quello che è verosimile, diciamo, è che in Turchia c'è un regime fortemente personale. C'hai davanti e un'altra dietro. E va bene, questo è D'Alema, in cui il numero di diciamo nelle frasi D'Alema ormai sta aumentando vertiginosamente. Sempre di più, non crede all'ipotesi del golpe auto-organizzato, cosa in cui invece crede forse una parte della sinistra italiana. A proposito di Erdogan, non bastano le purghe, gli arresti, 9.000 arresti, addirittura sono state chieste le dimissioni di 1.500 rettori. Che cosa c'entrano i rettori col colpo di Stato? Niente, credo, proprio assolutamente niente, ma questo è, sono accusati di essere vicini a Fethullah Gulen, il famoso predicatore bla bla bla che sta negli Stati Uniti. Adesso invece sentiamo, a proposito di moschee, Maroni. Sapessi quanta gente che c'è sta. Ha annunciato un inasprimento della legge antimoschee. Ci stiamo lavorando. Il mio obiettivo è rendere la vita impossibile a chi vuole ammazzarci, punto. Vedremo che cosa servirà, però questa è la direzione che noi abbiamo deciso di prendere. Assoluzione in appello per i medici del caso Cucchi. È la Corte d'Appello di Roma che ha assolto 5 medici che erano già stati assolti nell'altra sentenza. Sentiamo. giudice. Non puoi saper piacere che me fa. Assolve del Fierro, il De Marchi, Spreite, la De Carlo, la Corbi e la Bruno del reato di omicidio colposo in danno di Cucchi Stefano, perché il fatto non sussiste. Io invece manno sola, io invece manno sola, sola senza te. E invece annunciata una campagna mentre impazza tutta la questione dei Pokémon, che ormai segnano la distanza abissale tra chi ha più di, non lo so, vogliamo dire 40 anni e chi ne ha meno, ragazzini di 15, 16, 20 anni che vanno in giro inseguendo i Pokémon, l'avete sentito, questi fantasmi, mostri virtuali che si vedono sul telefonino nei luoghi reali però della nostra vita. Mentre tutto questo impazza, qualcuno dice una forma estrema di impazzimento, di individualismo, in America qualcuno ha sparato per questo, l'ex presidente della regione Lazio Polverini annuncia una campagna sul femminicidio, contro il femminicidio, con un hashtag mai più sola, e dice: abbiamo inventato anche com'è che si chiama quella cos'è, l'emoticon, non sa neanche di cosa sta parlando, dell'emoticon femminile. Sentiamo. Finalmente ci saranno dei nuovi, come si chiamano, emoticon al femminile. Voi sapete che ormai noi concludiamo tutti i messaggi che facciamo, soprattutto perché siamo costretti a dialogare via SMS o WhatsApp con i nostri nipoti, i nostri figli, e quindi abbiamo imparato ad utilizzare anche tutte queste faccine. E per alcuni mestieri, lo dico da vicepresidente della Commissione Lavoro, si poteva utilizzare soltanto una figura maschile. C'è stata una campagna di sensibilizzazione in questo senso, adesso ci saranno alcuni mestieri, a cominciare dall'avvocato, ma non solo, che si potranno appunto anche mettere, coniugare al femminile. Dentro la norma c'è la tortura psicologica. Cioè vuol dire che un delinquente può denunciare magari il rappresentante delle forze dell'ordine che l'ha presa, perché l'ha torturato psicologicamente. Quindi è bloccare la sostanza indagini e possibilità di intervento. Cioè, questa è la norma presente in Parlamento. Non stiamo parlando di chi mette sulla sedia elettrica la persona. Eccoci qua, buonasera a Fabio Anselmo, avvocato. Buonasera. Buonasera a voi. Avvocato delle famiglie Cucchi, Aldovrandi e anche Mogherini, l'ultimo di questi casi, c'è stata una condanna qualche giorno fa, quattro carabinieri condannati, pene non molto pesanti però per quel caso a Firenze. E invece oggi c'è stata una soluzione per il caso Cucchi, 5 medici. In discussione al Senato la legge con il reato di tortura. Ha sentito Federica della Lega? Ci sono delle critiche su questo, qualcuno dice che si sta criminalizzando la polizia. Beh, allora si vede che in tutti gli altri paesi europei la polizia è criminale, perché tutti gli altri paesi europei hanno una legge sulla tortura, l'unico che non ce l'ha è l'Italia. Allora, cioè, dobbiamo capire se l'introduzione della legge sulla tortura è di ostacolo e di danno alle forze dell'ordine, vuol dire che quegli atti che la tortura vuol proibire sono atti che normalmente le forze dell'ordine pongono in essere per fare il loro mestiere? Ma io non ci credo. Io credo che sia una strumentalizzazione politica priva di qualsiasi senso. E la legge sulla tortura è una legge per le forze dell'ordine, non contro le forze dell'ordine. Perché è una legge per le forze dell'ordine? Lei dice? Perché è una legge che garantisce gli appartenenti alle forze dell'ordine proprio dai comportamenti che purtroppo, come tutti gli appartenenti al genere umano, si possono verificare di devianza e di violazione dei diritti, e anche con commissione di fatti che sono che debbono essere puniti penalmente. Cioè, non è che il solo fatto di portare una divisa comporta la C'è un problema sull'audio, forse. C'è un attimo un problema sull'audio, Anselmo, non la sentiamo. Le faccio intanto una domanda, poi tanto abbiamo anche la pausa sul traffico, eventualmente. Sempre chi critica questa norma dice: siamo arrivati alla minaccia o allo schiaffo che vengono qualificati come tortura. È verosimile questa critica? Ma la critica, cioè, è verosimile? Assolutamente no. In ogni caso, lo schiaffo, non capisco. Vogliamo conferire liceità ad un comportamento violento che non sia giustificato da un obbligo di istituto e di servizio? Cioè, questo che mi chiedo. La minaccia in sé per sé, dipende da qual è l'oggetto della minaccia. Se la minaccia è quella di sottoporre l'indagato, l'imputato, l'arrestato a procedimento penale, ad arresto e quant'altro, è un atto pienamente lecito. Se la minaccia significa minacciare un fatto ingiusto, un danno ingiusto, un danno che è valica, che diciamo, esula da quello che è l'ambito di operatività delle forze dell'ordine, la minaccia diciamo in sé per sé non va bene. Insomma, lo Stato ha l'esclusiva della prerogativa dell'uso della violenza. L'uso della violenza da parte dello Stato è disciplinato dalla nostra Costituzione e dal nostro codice di procedura penale e dal nostro codice penale. Quelli rimangono i limiti. Cioè, non è che la tortura va a vietare, introduce il divieto a comportamenti che prima non lo erano. La tortura non fa altro che disciplinare una materia che è quella dell'abuso dei diritti umani, che purtroppo non riesce a trovare adeguata disciplina nelle norme che sono già presenti nel nostro codice penale e che sanzionano determinati comportamenti ma non in maniera efficace. Sì, tra l'altro ne abbiamo un esempio davanti agli occhi, però in Turchia, di quello che non deve mai accadere, di come la polizia sta arrestando, ammucchiando gente senza che ci siano rispettati minimamente i diritti civili, assolutamente, perché lì non ci sono, credo, mandati di magistrati, non ci sono tantomeno processi, per una cosa molto più piccola ma simile, la famosa caserma Diaz d'Italia, ci sono state delle condanne, delle sentenze definitive, c'è stata anche una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e sicuramente in Italia su questo bisognava dire qualcosa. Adesso le voglio chiedere però se secondo lei questa legge viene fatta più per questo tipo di situazioni, caserma Diaz, oppure più per casi individuali, quelli per i quali per esempio lei è stato avvocato, il caso Cucchi o Aldovrandi o Magherini. Però ci fermiamo per un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, avvocato Anselmo, lei chiaramente è una parte in causa, sia perché è stato l'avvocato delle famiglie Cucchi, Aldovrandi ed altri casi simili, sia perché nel passaggio in cui viene approvata questa legge, per esempio uno degli oppositori di questa legge, l'onorevole Giovanardi, la tira in ballo direttamente dicendo che lei condiziona i processi per via mediatica, eccetera, eccetera. Volevo ricordare questo però per dire che lei è una parte in causa, però è anche un avvocato. Io le voglio chiedere di spiegarci anche un po' questa legge. Perché qual è il reato esatto che viene sanzionato con questa legge qualora dovesse essere approvata? Ma guardi, i reati che vengono sanzionati sono tutti comportamenti di abuso. Cioè, chiunque infligge sofferenze fisiche e psichiche che ovviamente travalicano i limiti di esercizio dell'attività istituzionale a persone che si trovano ad essere sotto custodia o comunque soggette all'autorità delle forze dell'ordine, delle forze di polizia nell'ambito di arresti o nell'ambito attività di ordine pubblico e quant'altro, è chiamato a rispondere di fronte alla legge. Lei ha citato prima la sentenza Diaz, la sentenza Bolzaneto. Queste diciamo sono comportamenti che comunque erano vietati dal nostro codice penale, ma comportamenti che erano vietati in modo bagatellare, che hanno favorito una rapida prescrizione e che meritano invece una sanzione diversa, più grave. Io potrei fare un paragone. Cioè, si può fare un paragone, si può fare un paragone tra Bolzaneto e quello che è molto diverso, naturalmente è molto più su vasta scala, non c'è confronto, c'è stato un colpo di stato, però a livello internazionale, a livello mediatico, quello che adesso le critiche che sta subendo la Turchia per come vengono trattati i militari arrestati e come invece vennero trattati a Bolzaneto i manifestanti, si può fare un parallelo? Ma il parallelo si può fare con tutti i fatti di questo genere che sono gravissimi, quello successo a Bolzaneto e a Casella Diaz è inaccettabile in uno stato di diritto, ma così come è inaccettabile ritengo quello che è successo al povero Federico Aldrovandi, che aveva appena compiuto 18 anni, che era disarmato, non aveva mai avuto problemi con la giustizia, non stava facendo male a nessuno, così come non è tollerabile quello che è successo al povero Stefano Cucchi, che dopo il suo arresto ha subito quello che ha subito e quello che sta subendo anche la famiglia, ma Riccardo Magherini, ma tutti gli altri, Riccardo Rasman, ce ne sono tantissimi. Cioè, quello che io voglio dire è che gli abusi si verificano in ogni paese, perché chiunque può sbagliare, che abbiano divisa o meno. Il concetto fondamentale è che la vita, l'integrità personale del soggetto, come viene chiamato nei verbali di fermo, di arresto e quant'altro, che si trova a disposizione delle forze dell'ordine, è sacra. L'uso della violenza, per la nostra Costituzione, deve essere l'estrema ratio e deve essere rigorosamente proporzionato alle esigenze contingenti e necessarie del momento. Quando l'uso della violenza è gratuito e non è giustificato, quella è tortura. Non c'è nulla da dire in metà, di diverso rispetto a questo. Quella è tortura. Tornando alla critica sul reato di tortura psicologica, è vero che questo può essere però opinabile, il fatto che uno dica di aver subito una tortura psicologica, perché è brutto dirlo, ma non si portano le tracce, no? Fisiche di una cosa del genere. Ecco, questo, noi abbiamo un grande problema culturale su questo, ma l'abbiamo su tanti altri aspetti della cosiddetta sofferenza umana. La sofferenza psichica da noi, soltanto per quanto riguarda la tortura, non gode di adeguata tutela, di adeguato interesse spesso da parte della medicina legale. E quindi già questo è un problema che potrebbe risolvere tutti i timori da parte di coloro che non vogliono, che hanno paura dell'introduzione del reato di tortura per quanto riguarda anche dell'estensione alle sofferenze psicologiche. Ma parliamo di sofferenze psicologiche, sempre parliamo di abusi, parliamo sempre di una sofferenza che va al di là di quello che è la normale, diciamo, il normale stato di soggezione psicologica e di timore che può avere un indagato che viene arrestato perché ha commesso un delitto che può essere più o meno grave e che si trova soggetto all'autorità delle forze dell'ordine. Le sofferenze psicologiche di cui parliamo, la tortura, sono di ben altro genere. Cioè, questi sono, diciamo, falsi problemi, perché poi non c'è questa voglia da parte dei giudici di estendere in realtà la responsabilità delle forze dell'ordine, e questa mancanza di comprensione da parte dei giudici delle problematiche che incontrano le forze dell'ordine sulla strada tutti i giorni. Anzi, è una forma di eccessiva tutela e di eccessiva riserva, di eccessiva cautela rispetto alle ragioni di chi invece rimane effettivamente vittima di determinati soprusi, anche gravi, fino a perdere la vita. Fino ad oggi forse è stato così. Le faccio sentire Fedriga della Lega un attimo. Noi vogliamo questa legge bloccarla, perché quindi così non funziona. È la tortura psicologica che contestate. Tortura psicologica, mettere dei limiti e dei paletti, perché altrimenti se uno strattona un po' più forte un delinquente, la gente rischia di prendersi a denuncia. Dobbiamo mettere dei limiti ben chiari, perché dopo non sappiamo quello che succede se non mettiamo dei limiti ben chiari e non tuteliamo prima di tutto le forze dell'ordine. È così? Per uno strattone un poliziotto può essere denunciato? Ma non esiste, sono falsi problemi. Guardi, io ho fatto una, diciamo, domanda precisa e una denuncia direttamente al ministro della giustizia Orlando, quando ho avuto l'onore di incontrarlo insieme a Ilaria Cucchi, e ho detto: guardi ministro, e non mi ha smentito il ministro, guardi ministro, noi ci ribelliamo all'idea che la legge sulla tortura posso in qualche modo pregiudicare il diritto alla sicurezza da parte dei cittadini e delle forze dell'ordine, perché questo è il messaggio che si sta surrettiziamente, ma poi neanche tanto, lanciando, è che la tortura lega le mani alle forze dell'ordine e quindi mette in discussione e pregiudica la sicurezza dei cittadini. Ma vogliamo scherzare? Ma non siamo mica in Turchia. Se noi facciamo passare un concetto di questo genere, noi facciamo passare un concetto in funzione del quale, per garantire la sicurezza dei cittadini, bisogna violare i diritti umani, perché questo è l'esatto, diciamo, l'esatta corrispondenza di ciò che si vuol sostenere. Se si vuol addirittura far credere che uno strattonamento, diciamo, possa configurare la tortura, veramente siamo al paradosso. Io credo che cadiamo nel ridicolo. Se non stessimo parlando di un argomento così serio, parlerei, diciamo, direi che cadiamo nel ridicolo. Va bene, staremo a vedere. Grazie, la legge deve ancora naturalmente essere approvata, però la discussione ci stava tutta nel momento in cui c'è un passaggio al Senato. Grazie Anselmo, buona serata. Buona serata a voi, grazie a voi. Allora, intanto agli ascoltatori, Giacomo che è al 349-238-6666 ci scrive, ma Cruciani ha già cambiato radio o è andato in ferie, se poi è andato in ferie in un'altra radio non lo so, non lo può sapere nessuno, no, è andato in ferie, ha annunciato di andare via un po' prima del previsto e quindi per queste due settimane sarò io a tenervi compagnia fino alle 20, poi c'è un best of della Zanzara, poi partirà il programma sulle Olimpiadi, così anticipiamo un po' quello che sarà il programma estivo di Radio 24. Abbiamo all'800 24 00 24 Roberto da Pesaro, buonasera. Sì, salve. Ciao Roberto. Sì, volevo dire che riguardo al golpe in Turchia, sì? Una cosa che avevo notato io anche qualche commentatore da subito, che a me sembrava molto evidente che questo golpe fosse etero diretto, diciamo, dagli Stati Uniti, che sono gli unici in grado di organizzare una cosa di questo tipo. Non a caso oggi su Repubblica sono usciti degli articoli in cui chiarivano che questi famosi MiG, no, dei golpisti, erano partiti da una base NATO ed erano stati riforniti da una cisterna degli Stati Uniti, da un'avio cisterna degli Stati Uniti. A me mi sembrava evidentissimo. Roberto, qui però quando si va su questo genere di teorie il problema è che sono tutte ampiamente indimostrabili. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di tutte queste eventualità, del complottismo. È possibile, cosa vuole che possa aggiungere? Grazie, buona serata. Ezio da Milano. Ezio. Ah, buonasera. Intanto vorrei precisare di essere d'accordo con l'interlocutore riguardo il reato di tortura, l'avvocato che ha parlato prima. Sì. Dunque, no, io volevo intervenire semplicemente su quello che ha detto D'Alema, su Renzi, sul governo Renzi. Allora, bisogna fare delle premesse. Intanto D'Alema, quando... Veloce è stato... però perché abbiamo un minuto e poi dobbiamo dare la linea al giornale, sì, radio. Allora, D'Alema quando è stato Presidente del Consiglio non ha affrontato il problema del conflitto di interessi, chiaramente, che c'è ancora in Italia, insomma, credo. Comunque è stato la sinistra con Berlusconi, è stata praticamente con i guanti di velluto, per cui no, adesso non facesse l'uomo di sinistra. Poi la sinistra ha grossi problemi perché Renzi è stato costretto a un governo di coalizione. Se la sinistra non fosse stata divisa come nel 1921 e dopo è sempre stata divisa, noi non avremmo avuto oggi... Certo, perché molti nel PD dimenticano che il PD non ha vinto le elezioni e quindi, cioè, le ha vinte di poco ma non le ha vinte a livello di seggi, quindi c'è un governo di coalizione. Vero, giustissimo Ezio, grazie, buona serata, ci risentiamo dopo il GR, a più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ha annunciato un inasprimento della legge antimoschee. Ci stiamo lavorando. Il mio obiettivo è rendere la vita impossibile a chi vuole ammazzarci. Punto. Vedremo che cosa servirà, però questa è la direzione che noi abbiamo deciso di prendere. Le restrizioni, la crociata, chiamatela come volete, in Lombardia, della Lega, di Maroni in particolare, contro le moschee. A proposito di moschee, non contento, come se non bastasse, vabbè, è il suo paese, fanno giustamente quello che gli pare, però Erdogan ha annunciato che vuole costruire una moschea in piazza Taksim, una caserma in piazza Taksim. Piazza Taksim è quella piazza dove c'è il ritrovo serale dei giovani, ci sono le strade vicine, ci sono tutti i locali, è lì dove ci sono state tante manifestazioni. Ricordate che per la costruzione di un centro commerciale al posto di un parco, Gezi Park, erano nate tutte le manifestazioni manifestazioni, le proteste che poi portarono anche a delle reazioni violente della polizia in Turchia e a delle vittime. Ecco, non contento, quasi 10.000 arresti dopo il colpo di Stato, così per tranquillizzare gli animi Erdogan oggi ha detto: va bene, costruiamo una caserma, un'altra e una moschea in piazza Taksim. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo, vi aspetto io, Alessio Maurizi, con Si può fare, questa sera, per tutta la settimana e per la settimana prossima, al posto della Zanzara, che poi torna dopo le 20 con un best of, Giuseppe Cruciani in vacanza, lo dico adesso, poi non lo ridirò più, ha annunciato lui stesso anticipatamente, per due settimane prima del previsto, e quindi ci siamo noi a tenervi compagnia. Ancora, voci di giornata, marcato della Lega. I migranti devono essere fermati e verificati in mare. Sì. Che se oggi l'Africa è messa così, c'è una colpa loro, oggettiva. Non possiamo caricarci noi di colpe che non abbiamo. Vabbè. Se non capiamo questo, noi con questo senso di colpa avremo sempre un atteggiamento supino. No, è dovuto al pietismo. Allora, non si governano i processi con il pietismo. Come sta succedendo ad Agna, che è un comune della bassa Padovana, dove il sindaco è stato costretto a mettere dei cartelloni con il divieto di urinare in piazza, perché la piazza oggi sta diventando un grande Vespasiano. Ecco, questi sono i problemi anche gli italiani. Che vengono scaricati. Guardate, difficilmente io vedo decine di italiani andare in giro nelle piazze, ubriacarsi e urinare addosso ai monumenti. Va bene, dice, non si governano i processi con il pietismo, le situazioni si governano con gli atti. Beh, io potrei dire neanche con le dichiarazioni sull'aiutiamoli a casa loro, fermiamoli in mezzo al mare, che non si può fare, aiutiamoli a casa loro, che non si fa mai. Comunque è tutto legittimo. Si può però anche ogni tanto volgerci verso chi fa qualcosa. Per esempio, vi voglio dare questa notizia qua, se volete dare una mano, se volete partecipare, perché no? A Lampedusa, dove si fanno un mazzo così veramente per accogliere, per tirare via la gente dal mare, a Lampedusa, dove si fanno un mazzo così, c'è un progetto per costruire uno stadio di calcio, un bello stadio, uno stadio grande, possibilmente anche dove far giocare qualche squadra. Adesso Lampedusa ha avuto una promozione, ma siamo a livelli bassissimi. Anche qualche squadra di Serie B o di Serie A addirittura potrebbe giocare in questo stadio. È un progetto, lo sta promuovendo con un crowdfunding, cioè un crowdfunding, se no poi dicono che sbaglio la pronuncia, la piattaforma Tifosi con la Y, per appunto costruire sull'isola uno stadio di calcio. Chiedono 100.000 euro in 6 mesi, è partito pochi giorni fa, i primi 50.000 euro ce l'ha messi la Lega Calcio di Serie B, poi ci sono degli altri sponsor come la Fondazione per il Sud, l'Enel, che metteranno tanti altri soldi, perché è stato calcolato che ci vogliono 2 milioni di euro per far partire questo progetto e portare a Lampedusa un qualcosa che abbia un senso, che dia una nuova identità, un motivo la mattina per alzarsi ai lampedusani, che non sia solo contare i cadaveri intorno a loro. Se volete dare una mano potete farlo andando sulla piattaforma appunto Tifosi, dove si possono donare 5 euro, 10 euro, 20 euro per questo progetto, uno stadio a Lampedusa. Adesso risentiamo D'Alema, che cioè, alla grande contro Renzi. Quando Renzi andò al governo iniziò a realizzare un programma che non era il programma del Partito Democratico. Era il suo, forse. Sì, no, veramente non era neanche il suo, era quello di Berlusconi. Quando bisogna votare sì o no a un volumetto, anziché come correttamente avrebbero dovuto fare, dividere in 5 proposte di riforma costituzionale e sottoporre 5 quesiti, ma quando si vota su un volumetto non è un referendum, diventa un plebiscito. E allora andiamo con gli ascoltatori. Dove andiamo? Andiamo con Edoardo, che ci chiama da Milano. Buonasera, ciao Edoardo. Buonasera, ciao a tutti e complimenti per la vostra trasmissione. La prendo un pochino alla lontana, sì? Non sono d'accordo su una sola parola di quello che dice il signor Massimo D'Alema, a cominciare dal recente pseudo golpe, sì, di Erdogan. Lasciatela prendere un attimo alla lontana. Ritengo il signor Massimo D'Alema uno dei peggiori soggetti della politica italiana partoriti da questo paese. Ma guardi, viene il sospetto, Edoardo, poi ti faccio parlare, che queste dichiarazioni di D'Alema contro Renzi siano finanziate, portate avanti dallo stesso Renzi, perché è chiaro che stanno diventando quasi un boomerang, no? Solo come che la pensa lei? Credo che la pensino in tanti. Ecco, io il mio interesse era rivolto in questo momento alla crisi turca. Sì. In poche parole, quello che mi sembra di vedere è che il signor D'Alema non ha assolutamente nessun titolo dopo le sue incestuose passeggiate con Hezbollah del luglio 2006 per porsi come interprete della politica internazionale. Ha preso delle cantonate spaventose sempre e al tempo stesso me lo ricordo come uno dei peggiori presidenti di consiglio italiani. Sono convinto che il golpe di Turco sia stato organizzato da Erdogan, perché non si arrestano 8.000 persone e 2.500 giudici nello spazio di 2 o 3 ore. Sì. Ci deve però possiamo, scusa Edoardo, sì, possiamo tenere distinte le due cose? Cioè, è vero che arrestare quasi 10.000 persone in 2 giorni è impossibile se non avevi già delle liste prima, e sicuramente si stanno allargando le maglie in una maniera impressionante, però di lì a concludere che il golpe lo ha organizzato lo stesso Erdogan, ce ne corre, Io non ci metto la mano sul fuoco, non ho delle informazioni riservate, è la mia impressione in corso d'opera, cioè mentre stava succedendo il golpe, con questa specie di finta fuga che ha fatto il signor Erdogan, secondo me era tutto organizzato. Resta un mio punto di vista, non dico che la debbano pensare tutti come me, se gli altri sono d'accordo bene, se no dissentono, è bello che è fatto. Posso chiedervi una cortesia? Anche due. Voi avete il mio numero di cellulare, mi potete far contattare, ma con urgenza, o da Giuseppe Cruciani o da David Parenzo? Io ho già mandato loro delle mail, però se la zanzara è sospetta. Per fare cosa, Edoardo? Per ho fare bisogno cosa? Di parlare con loro, ho già spiegato nella mail che ho mandato. Ho bisogno di parlare con loro. Certo, va bene, nella Edoardo. Mail che ho già mandato due volte, l'altro giorno, cioè ieri praticamente, parlerei più che volentieri con loro Questa situazione. Bisogna vedere però, Edoardo, bisogna vedere, scusa se ti abbasso perché è inutile andare avanti, se loro hanno bisogno di parlare con te. Questa è la questione. Oscar da Genova, buonasera. Buonasera. Prego. Io sono in perfetta sintonia con l'interlocutore precedente, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Soprattutto penso che se l'avessero veramente organizzato gli americani probabilmente sarebbe riuscito, primo. Secondo, il fatto che comunque effettivamente gli arresti in così poco tempo possono semplicemente evidenziare una tattica per vedere chi era veramente il complottista all'interno del suo paese. Questo è il mio pensiero. Non parlo di D'Alema perché lascio perdere quello per che carità ha messo di patria. Le squadre di calcio, le società sportive le ha fatte passare in SPA, quindi... Va bene, grazie Oscar. Ciao, buona serata. Buona grazie serata. Hassan da Verona. Ciao Hassan. Sì, buonasera, grazie di avermi richiamato, complimenti per la trasmissione. Niente, volevo parlare di due punti. Il primo punto, rispondendo a tutti gli esponenti della Lega e per primo a Maroni, che ha detto che devono fare delle leggi contro le moschee. Anzi, io non è questione di provocare, ma è la realtà, dici così, perché ci sono tanti nostri figli, anche noi siamo diventati dei cittadini di questo paese. Dal primo giorno che paghiamo le tasse. Lei dice noi, lei dice noi a chi si riferisce? Genitori dei nostri figli, praticamente, della prima generazione. Siamo musulmani convinti, esatto, e noi vogliamo delle moschee regolarizzate, nel senso, anzi, bisogna aprire delle moschee, perché le moschee che vediamo oggi in giro non sono quelle che vogliamo. Vogliamo dei consigli istituzionalizzati, che le istituzioni ci danno dei luoghi dove possiamo pregare tranquillamente. Cioè lei dice finché non ci sono delle moschee vere, dei luoghi grandi dove può andare tanta gente a pregare, voi continuerete a pregare in questi circoli, in queste cose spesso illegali, a volte nelle abitazioni private. Anche, siamo anche esposti a delle propagande, nel senso delle politiche e delle propagande per questi esponenti qua, perché ci danno di tutto in tutti i momenti, non solo adesso. Però lei è d'accordo, Hassan, che fra l'altro parla molto bene italiano, da quanti anni è in Italia? Sono 28 anni che vivo in Italia. Sono tanti, 28 anni. Però i miei figli, uno ha preso la maturità qua in Italia e sono contento perché ha quasi un accento, non saprei dire di dove, ma quasi un accento veronese. E sono anche contento di esserlo. Sì, anzi, diamoci il tuo, è meglio. Assal, sei d'accordo sul fatto che le prediche debbano essere fatte in italiano all'interno delle moschee? Perché questa è una richiesta. Io non ho nessun dubbio che è una cosa molto efficace anche per noi e per i nostri figli, perché tanti non parlano neanche l'arabo, è una cosa anche ovvia. E l'Islam non è quello che vediamo, ma anche per sentire, anche per sapere esattamente che cosa viene detto, perché sì, anche per dare l'opinione pubblica di quello che facciamo, di quello ci sono che stati proviamo, degli imam facciamo. Che condannavano delle scelte, non so, anche semplicemente il fatto di ascoltare musica occidentale, il fatto di liberalizzare troppo i comportamenti delle ragazze sui diritti delle donne, per esempio. Mi scusi, l'estremismo esiste ovunque, anche nella politica, non solo nella religione, purtroppo è così, la realtà è diversa da quello che vediamo. No, certo, però la politica parla italiano, invece nelle moschee spesso gli imam, ce ne sono parecchi che non parlano l'italiano, e questo è un problema se non si sa che cosa viene detto in questi luoghi, no? Bisogna farlo in italiano, per me bisogna farlo in italiano e non c'è nessun dubbio, perché è una cosa che va bene anche per noi. Mi scusi, l'altro punto che è molto importante, che ho provato a chiamare tante volte, la terra dei fuochi, i rifiuti sono arrivati in Marocco, ma non ho visto neanche un articolo sulla stampa italiana. Sta creando un caso in Marocco, il ministro dell'ambiente sta avendo dei problemi in Marocco. Io so che c'è stata una specie di levata di scudi in Marocco da parte di non so, dei politici locali, qualcuno che ha detto non vogliamo i rifiuti che vengono dall'Italia, perché in effetti vengono, credo, dalla Campania, andavano in Germania, poi adesso c'è una parte di rifiuti che vanno proprio in Marocco. E questo è vero. Sì, no, non va bene, bisogna parlarne, perché è un problema serio per la comunità marocchina. Perché è un problema? Perché sono dei rifiuti molto pericolosi e nessuno ne parla, perché sta creando un caso in Marocco, e questo volevo saperlo anche sulla stampa italiana, perché essendo partiti dalla terra dei fuochi e sono arrivati là, lei ha paura che tra quei rifiuti non siano rifiuti normali, ordinari, che vanno, come per esempio quelli che vanno in Germania all'inceneritore in Campania, scusi, aspetta Hassan, perché quelli che vanno in Germania sono rifiuti normali che vanno negli inceneritori, che hanno una sovracapacità, devono essere alimentati quelli tedeschi, quindi loro si fanno pagare e in più alimentano i loro inceneritori. Lei ha paura invece che in Marocco finiscano rifiuti speciali, velenosi, rifiuti tossici? Sì, tossici, dicono che sono tossici, da quello che dicono in Marocco, perché sta creando un caso molto grave. Ne parleremo, grazie Hassan, buona serata, ciao. Molto gentile, Borsa, grazie. Ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Ulisse, che ci scrive al 349-238-6666, è un abitué. Chi le dice che Hassan fra due giorni non accoltelli un italiano? Hassan che ha appena finito di parlare. Ulisse, un consiglio solo, vai a giocare coi Pokémon e non scrivere più queste cazzate alla radio. Germano, dalla provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera, no niente, sono dalla provincia di Venezia. Di Venezia, sì. Buonasera. No, prego. Allora, io cerco di essere veloce. Allora, intanto premetto che sentire politici come D'Alema, tutta questa gente che hanno fatto della politica la loro professione, hanno stancato il mondo. A parte questo, dico una cosa, cosa possiamo fare per sistemare questo paese, che ormai è allo sfascio? Se hai qualche ricetta veloce, noi siamo tutto orecchie. Allora, anzi, ridurre la spesa dello Stato, faccio un esempio. Consorzi di acquedotto, abbiamo in una regione 5, 10, 15 consorzi di acquedotto, quindi sono 5, 10, 15 consigli di amministrazione. Riduciamoli. Bene, questa la sapevamo già. Un'altra, Germano, un'altra veloce che si può fare il programma delle azioni. Allora, ridurre l'evasione fiscale. Io dirigo un'azienda. Come ed però? È in grossa difficoltà, perché sì, i miei competitors, molti competitors, usano delle brutte pratiche, quelle della tangente. Sì, okay? Un'idea concreta per ridurre l'evasione? Quindi un'idea concreta? Portare il giro del contante a 50 euro, sì, lo Stato si accolla... 50 euro addirittura i contanti? 50 euro, perché... Questo governo l'ha aumentato, questo governo l'ha un po' aumentato. Va bene, grazie Germano, grazie. Vale. Non possiamo fare l'elenco delle misure per cambiare l'Italia adesso, perché ci vorrebbe troppo. Domenico da Roma, buonasera. Salve, senta, io chiaramente devo fare un piccolo intervento sull'intervento del marocchino, perché io sono della terra dei fuochi di provenienza, cioè sono nato lì, ho venduto tutte le proprietà che avevo perché appunto il territorio è stato massacrato, però ritengo, come dice lei, che se questi rifiuti li hanno presi in Germania, i tedeschi non avrebbero preso rifiuti tossici. Fatta questa parentesi, io avevo chiamato per parlare di democrazia. Sì. C'è differenza tra democrazia e regimi totalitari, visto quello che sta accadendo in Turchia, che viene dichiarato un paese democratico, tant'è vero che lo stiamo accogliendo nella nostra comunità europea. No, aspetti, non stiamo accogliendo proprio nessuno, è tutto fermo l'ingresso della Turchia. No, nel senso che il processo c'è, nel senso che è uno dei paesi in attesa. Vabbè, un processo che però è interrotto proprio perché l'Europa ha molti dubbi sul fatto che la Turchia sia un posto. Ma il presidente è stato eletto con una. Sì. È stato eletto democraticamente. Questo, sì. Esatto. E allora. Ma qual è il parallelismo che le voleva fare tra la Turchia e chi? Con i paesi con i quali abbiamo fatto guerra. Cioè, tra quello che sta facendo adesso Erdogan in Turchia e quello che hanno fatto Gheddafi piuttosto che Saddam Hussein o lo stesso presidente della Siria destra. Adesso c'è poca differenza, però in quegli paesi noi abbiamo... No, guardi, secondo me c'è molta differenza, mi scusi se la fermo, perché sono cose completamente diverse. Erdogan era un amico di Mubarak, Gheddafi, Assad, questa gente qua, però è molto diverso. Questi sono regimi dove spesso erano vere e proprie dittature, non c'erano elezioni ed erano regimi fantoccio che piacevano all'Occidente. Invece Erdogan no, è una cosa diversa. Sì, però la reazione è la stessa, cioè lui sta arrestando gente che non c'entra niente, cioè professori universitari, magistrati. Cioè adesso io voglio mettere al di là del fatto che sia stato lui o meno a produrre questo colpo di Stato, in realtà in questo momento in Turchia non c'è un regime democratico, perché sta arrestando persone che non hanno nulla a che vedere con quello che è stato. È vero che, se possibile, la situazione è molto peggiorata da quando c'è stato questo tentativo di colpo di Stato, vero, presunto, finto, autofatto, etero diretto dagli americani. Sicuramente la situazione in Turchia è apparentemente, almeno, ma è peggiorata moltissimo. 10.000 arresti, si commenta da sé le condizioni in cui vengono tenute queste persone. Quindi sicuramente su questo, Domenico, hai ragione. Grazie. 800 24 00 24, tra poco ancora ascoltatori. Virtual Insanity, Jamiroquai, in tempi non sospetti cantavano della insanità che può derivare dal mondo virtuale. Io prima, Ulisse, ho consigliato all'ascoltatore che sospettava che l'altro ascoltatore Hassan, solo per fatto che si chiama Hassan, potesse andare a ammazzare qualcuno, che è così una cosa ingiustificata, gratuita, una follia, perché dobbiamo riempirci la testa di questi pensieri malati, di andare a giocare coi Pokémon, cioè andare a fare una cosa che non fa male a nessuno in fondo. Oddio, anche qua bisogna vedere, perché ci sono già delle teorie sul fatto che faccia male giocare ai Pokémon, e in effetti cacciare i Pokémon, in effetti c'è stato anche un uomo che ha sparato in America perché sta succedendo un casino attorno a questi Pokémon. Adesso però, prima che la situazione degeneri, io saluto Marco Gentili del Comics Caffè di Grosseto. Buonasera, ciao Marco. Ciao, buonasera. Allora, prima che la situazione degeneri, speriamo di no, perché è un passatempo innocuo, un po' stupido magari, perdonami Marco, tu sei andato a caccia di Pokémon? Sì, sì, certo, ci sono andato tramite Game Boy 15 anni fa, certo. E anche oggi sono un po' più cresciuto, capita ogni tanto, almeno da un paio di settimane a questa parte, di cacciare Pokémon. Cacciare Pokémon, però spieghiamo a chi non sa assolutamente niente, che sono ancora tanti, di cosa stiamo parlando, cosa vuol dire cacciare i Pokémon, perché prima si potevano cacciare sulla console, il videogioco, eccetera. Adesso la situazione è cambiata, si usa solo lo smartphone, si guarda dentro, si vede la realtà circostante coi Pokémon. Spiega un attimo. Esatto, fondamentalmente te vedi la mappa... E la mappa vera e propria della tua città, per cui le strade, anche monumenti, palazzi, eccetera, e a seconda di dove ti muovi trovi questi mostriciattoli che puoi catturare. Chiaramente ci sono i Pokémon, quelli lì di mare è più facile trovarli, quelli di mare? Laghetti. Sì, sì, ci sono quelli lì d'acqua, magari sono più vicini ai corsi d'acqua come i fiumi, i laghi, oppure sì, al mare. I Pokémon, quelli d'erba, sono, li trovi più facilmente in campagna e così via. Ma cioè, chi è che li fa apparire? Chi è che li fa apparire questi Pokémon? Direttamente la... chi è che ha inventato questa app in America? C'è la Niantic che in collaborazione con la Nintendo. Niantic aveva fatto un po' di anni fa un'applicazione che si chiama Ingress, che era proprio questa cosa qua. C'erano questi punti d'ingresso con le varie fazioni, con la realtà aumentata, per cui te andavi in giro con la fotocamera e questi punti d'ingresso diventavano i monumenti della città e i luoghi storici, eccetera. Adesso si può giocare ovunque, in qualunque città, in qualunque zona della città, o ci sono dei luoghi particolari? Si può giocare da qualsiasi parte, in città, in campagna, perché vengono generati continuamente automaticamente questi Pokémon. Esatto, in maniera automatica. Ma si paga? Allora, no, questa applicazione parte in maniera gratuita. C'è un negozio dentro, una sezione è proprio il negozio, e te, per essere facilitato, puoi cambiare i soldini, quelli lì veri, proprio quelli lì della carta di credito, con monete che possono essere spese per prendere sfere aggiuntive per catturare Pokémon. Perché i Pokémon si catturano come? Con queste sfere? Sono queste Pokéball, le cosiddette sfere Poké, che lanciate addosso a loro in una sorta di minigioco, per cui con il tempismo di lanciarle ad una certa potenza scrollando il dito sullo schermo dello smartphone devi riuscire a prenderli centrando il loro cerchietto, e una volta presi sperare che non scappino. Quindi puoi giocare gratis se vuoi, oppure puoi pagare qualche soldino per avere qualche arma in più per catturare questi Pokémon, come la maggior parte delle applicazioni su smartphone ormai. Ma senti, dimmi la verità, ma probabilmente la mia domanda ti suonerà stupida, io ho quasi il doppio dei tuoi anni più o meno, ma non ti vergogni come un ladro andare in giro guardando nello smartphone in mezzo alla strada a giocare, a cacciare Pokémon? Allora, questa è una bella domanda, anche un po' cattiva, nel senso, di partenza effettivamente uscire per estraniarsi dal mondo è un po' un controsenso. Perché fino a un mese fa magari le persone che si volevano estranare si mettevano davanti alle varie PlayStation, se non l'Xbox, stavano lì 10 ore, facevano le nottate intere lì a giocare e via, mentre adesso te esci e comunque c'hai lo sguardo incollato sul tuo cellulare. Ma è meglio o peggio secondo te? Dei due allora, scenari? Anche questo è una lama a doppio taglio, nel senso, io tra virgolette magari lo posso utilizzare con un po' di coscienza, attraverso la strada mi metto il cellulare in tasca, guardo le macchine e poi vado, chiaramente in macchina mentre guido non lo utilizzo, tantomeno al lavoro. Certo, è il ragazzotto di 15-16 anni, magari ha un po' meno buonsenso e con gli occhi incollati sullo schermo attraversa la strada e non guarda chi c'è intorno, è così, effettivamente ti spinge fuori a girare nei posti in cui magari non sei mai andato, ma allo stesso tempo ti costringe a tenere gli occhi fissi sullo schermo del cellulare. Allora, a me tutto ciò suona, ovviamente sono estraneo abbastanza a questa idea di mondo, mi suona abbastanza assurdo, però è un po' di curiosità ce l'ho, soprattutto per esempio credo che sia divertente quello che state cercando di organizzare voi, cioè un raduno a un certo punto, no? Di gente che caccia i Pokémon, almeno ci si incrocia, se non altro per sbaglio, ci si urta uno con l'altro. Io e il mio socio Giulio abbiamo un locale a Grosseto, proprio dentro il centro storico, accanto a uno di questi monumenti che si chiamano Pokestop, che ti danno le ricompense ogni volta che ci passi davanti. E noi volevamo creare un'occasione di ritrovo tra tutti i cacciatori di Pokémon, perché sono veri e propri cacciatori di Pokémon, dove mettendo un'esca in questo monumento che abbiamo, sì, davanti al locale, che è una fontana, fare sì che le persone comunque si ritrovino, facciano, si bevano un drink, facciano un aperitivo con il loro cellulare accanto, possibilmente però nel tuo forza... bar, possibilmente nel tuo bar, chiaramente. Possibilmente, esatto, almeno l'intento è quello, però insomma ti bevi uno spritz in tranquillità, fa due chiacchiere, poi Pokémon vengono da te senza che te li vai a cacciare, per cui insomma siamo tutti contenti. Ora, tra l'altro, tu sei un ragazzo di soli, quanti anni hai? Possiamo 25. Dire. 25 anni e hai aperto questo che è un caffè, insomma un bar a Grosseto. È un bar con annessa fumetteria e reparto giochi da tavola, ecco. Una cosa un po' particolare. Già da qualche anno, se ho capito bene, ce l'hai, no? A novembre ne facciamo 4, sì. Quindi intanto complimenti, perché uno dice, grazie, guarda questo, grazie, qua, questo pischello che va a giocare con i Pokémon, questi ragazzi che non hanno voglia di fare nulla. Invece no, perché stiamo parlando con un ragazzo che a 20 anni praticamente ha messo su un'attività sua che evidentemente funziona, ti dà da vivere. E quindi state organizzando questo raduno, però quando, tra l'altro, diciamo così, giusto per... Senti, allora, noi si voleva fare per la fascia un po' più giovane, sì, per cui ragazzotti magari per la merenda dalle 4:30 alle 5:30 mettere le esche lì. Ecco, e però spieghiamo anche questa cosa delle esche, perché stiamo diventando tutti matti. Cosa stai dicendo? Cosa sono le esche? Le esche sono praticamente degli oggetti che nel nostro caso abbiamo comprato, però li puoi anche guadagnare andando avanti nel gioco gratuitamente, e li metti dentro il monumento e sono delle vere e proprie esche per i Pokémon, nel senso, mentre nella normalità, tra virgolette, te vai a giro e cerchi i Pokémon e provi a catturarli, in, sì, quest'altro caso invece l'esca fa sì che i Pokémon vengano verso questo Pokestop, si chiama. E l'esca la metti tu? Esatto, la mettiamo noi del locale. Ed è a pagamento. Dura però 30 minuti, ne mettiamo due, per cui dalle 4:30 alle 5:30, e poi ne metteremo altre dalle 19:30 alle 22:30. Però si paga, per mettere l'esca, cioè tu paghi a qua. Si paga, sì. Paghi all'app, cambi, sì. Esatto, vai alla sezione di negozio, cambi i tuoi soldi in monete d'oro, lì sono, e le monete d'oro che hai poi le spendi, chiaramente più monete compri meno ti costano. E le monete le spendi per prendere Pokéball, pozioni e anche queste esche. Quindi alla fine è un affare economico, perché se pensate a livello pubblicitario per il tuo bar, cosa vuol dire mettere queste esche? La gente che gioca con i Pokémon affluirà lì, perché i Pokémon affluiranno lì, quindi è un investimento di marketing, di pubblicità, chiamiamolo come vogliamo, no? È un investimento, per noi è anche un servizio che offriamo alle persone che vengono comunque all'aperitivo, perché noi prendiamo anche questo target, sì, qua di ragazzi che giocano con queste applicazioni. Un motivo di richiamo, cioè uno può mettere lì dei libri, può mettere lì la musica per far sentire la musica, può mettere un video, un'installazione, o può chiamare con l'esca i Pokémon in modo che la gente viene a giocare ai Pokémon. Pensate però a livello globale cosa può essere il giro miliardario intorno a questa app. Guardando anche un paio di video su YouTube, le persone magari ne sanno un po' meno, si possono fare un'idea dei caos, soprattutto nelle città, sì, americane. Persone che lasciano le macchine in mezzo all'auto perché ci sono determinati Pokémon più rari nei parchi, eccetera. Mi raccomando, a Grosseto, state calmi, non fate troppo casino, cerchiamo di fare... Cercheremo di tenere tutto sotto controllo. Va bene, appuntamento, tutti a Grosseto a cacciare i Pokémon, a meno si fa in compagnia, e credo che ci guadagna il gusto di dare la caccia a questi mostriciattoli. Grazie Marco, ciao, buona serata. Grazie a voi, buona serata, ciao. Allora, torniamo con gli ascoltatori. Pino da Vicenza, buonasera. Buonasera, intanto complimenti per la trasmissione che, grazie, seguo sempre quando lei le tiene anche sabato. Volevo dirle una cosa rispetto alla proposta che ho sentito su Lampedusa, della costruzione di uno stadio di calcio, sì, sì, sì, a Lampedusa. siccome sono reduce da due giorni da Lampedusa, sì, mi sembra veramente una proposta assolutamente folle, mi è sfuggito da chi è partita. Quando ci sono una proposta folle? Una proposta folle? Dice. Una cosa folle le dico perché. Perché? Appunto, perché ci sono delle priorità, secondo me, a Lampedusa, se non vogliamo. Ma non ci smonti però così le belle, non ci smonti così, Romano, le belle iniziative, le belle idee. Allora, no, visto no, che lei la smonto perché no, vabbè, giusto, è giusto. Che ho visto io nei giorni scorsi. Sì. Se vede le carcasse delle macchine abbandonate in ogni angolo di strada, se vede, sì, le carcasse delle barche abbandonate. Però per tirar fuori Lampedusa da questo, per tirar fuori Lampedusa da questa situazione, da questo casino, qualcosa bisognerà fare, da qualche, sì, parte si può iniziare. Questo è un progetto, è un progetto, potrà essere strampalato, io non lo so, infatti ho detto agli ascoltatori che se oltre a chiacchierare del più e del meno su quanto gli immigrati debbano essere più o meno respinti in mezzo al mare, come ho citato una dichiarazione di uno della Lega, discorsi che si fanno sempre, se invece in alternativa avessero voluto donare 5 euro, 10 euro a questa idea, poteva essere un modo diverso per parlare della stessa cosa, cioè l'idea di costruire uno stadio a Lampedusa. È un'idea forse strampalata, forse assurda, forse anche stupida. Non lo so. Esattamente quello che penso, però, quello che ho visto. Ma perché però, secondo lei, non potrebbe invece essere un modo? Cosa ci vorrebbe, secondo lei, per far ripartire Lampedusa? Appunto, ripeto, questa è un'isola gioiello dove potrebbero andare, potrebbe essere aperta praticamente tutto l'anno col clima che ha. Però si vede il progetto, il rendering del progetto, è bellissimo, perché c'è già uno stadio. Bello, ma voglio dire, lei vada con i suoi figli in motorino. È uno stadio vista mare, perché intorno c'è il mare da tutte le parti. Tutte le vacanze, non so se questo è più bello del rendering del stadio. Capisce? Se gira per Lampedusa, però scusi, se lei mi confronta, Romano, se mi condizioni, mi sembra assurdo. No, ok, se lei mi confronta i cani randagi, le carcasse delle macchine, il tanfo delle immondizie con il rendering dello stadio e mi dice che questo non ha senso, cosa le devo dire? Ha ragione, ma il rendering del progetto dello stadio è la visualizzazione di quello che potrebbe diventare, cioè se ci facciamo uno stadio ci sarà gente che ci va a vedere le partite, ci sarà un bar, ci sarà una caffetteria, ci saranno dei ristoranti, ci sarà del movimento e quindi ci sarà meno degrado, no? Questo è il meccanismo che si cerca con questo progetto sponsorizzato dalla Lega Calcio di Serie B, che per una volta mi sembra che cerchi di fare qualcosa di utile. È un progetto per cambiare, no? I residenti dell'isola e i migranti su un campo di calcio sterrato, schifoso, ma lo spirito è stato bellissimo. Sì. E ho visto questo. Ha visto giocare a calcio sull'isola? Come dice? Mi ci stava raccontando, ha visto giocare a calcio? Sì, hanno giocato nello stadio, nel piccolo, sì, campetto che c'è, tutto naturalmente sterrato perché è difficile far crescere l'erba a Lampedusa. Sì. Ho visto una bellissima partita tra cittadini di Lampedusa e una squadra di migranti era chiamata al resto di tutto il resto del mondo. Ma lei era lì per quale motivo, se glielo posso chiedere? Per vacanza. E c'ero giù proprio nei giorni che è venuto il presidente Grasso, in quell'occasione hanno fatto questa manifestazione di solidarietà tra isolani e migranti. Queste sono cose belle, ma per il resto bisogna salvare dal degrado un'isola che è un gioiello. Certo. E che potrebbe essere aperta tutto l'anno. Va bene, va bene. Lo stadio di calcio, costruiamo almeno un canile che i cani siano chiusi dentro. Non vada. Allora le voglio vincere io con Romano, voglio vincere io, e le dico che c'è un'altra notizia che ha a che fare sempre col crowdfunding. È questa, è stato invece, questa è andata a buon fine, finanziato un progetto proposto da Greenpeace Italia per i 30 anni dell'associazione. Sono stati raccolti 30.000 euro per costruire degli pannelli fotovoltaici che sono stati messi sopra, saranno messi sopra il tetto del comune di Lampedusa per alimentare tutta una serie di attività a costo zero, quindi energia rinnovabile al 100%, progetto di Greenpeace. Romano, questo le piace? È caduto, va bene, purtroppo, peccato. Allora, bene, ci fermiamo qua, è tutto perché adesso c'è il giornale radio, noi ci risentiamo domani alle 18.30 con Si può fare. Un ringraziamento a Leonardo Seligato, Riccardo Buccero, Riccardo Poli, Pietro Corte Regia. Ciao a tutti, da Alessio Maurizi, a domani con Si può fare, ciao.